Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi proviamo a dare insieme i numeri, nel senso che da una parte una controllata ai 30 azzurri preselezionati da Lippi e anche da qualche altro CT nel mondo, dall'altra parte torniamo a chiacchierare dei 100 anni dell'Italia, il compleanno del secolo è sabato 15 maggio e delle suggestioni che in questi tempi azzurro grigi, azzurro tenebra, come avrebbe detto Arpino, insomma ci può regalare una formazione ideale di tutti i tempi. Tutto questo in compagnia della firma della Stampa, Roberto Beccantini. Buon dì Roberto. Buongiorno Gigi. Senti, sono 30, diventeranno 23. È già possibile a parer tuo individuare i 7 che faranno questo po' di pre-raduno e poi mestamente torneranno a casa? Ma guardi, io penso che fra i portieri potrebbe restare a casa De Sanctis, fra i difensori Bocchetti e Cassani, anche se Cassani ha fatto un bel campionato, sì. E mi è piaciuto molto, è chiaro che io lascerei a casa anche Grosso, se proprio devo prendere un simbolo del Mondiale 2006, mi tengo Cannavaro nonostante la stagione fallimentare, certo, con la Juventus. A centrocampo Candreva è una riserva della Juventus, Gattuso stesso non ha fatto un gran campionato, e in attacco fra Borriello, Gilardino e Pazzini sono tre prime punte, può essere che una resti a casa. Una di queste certamente resterà a casa. Abbiamo detto chi probabilmente insomma uscirà da questa lista. Chi ci sarebbe stato da inserire? Perché io ho letto con attenzione i tuoi 23 ideali usciti sul nuovo numero del Guerin Sportivo in edicola da ieri. Il Guerino, sapete, che è diventato mensile, non è più un settimanale, ma non per questo ha perso il suo fascino e il suo spirito di bandiera. E insomma, 3-4 nomi che non figurano in questo elenco nel tuo ci sono e mi ha particolarmente colpito Miccoli, perché poi introduce un altro discorso. Sì, introduce il discorso del talento, in effetti manca un numero 10 come lo si intendeva da giovani, cioè come non tanto come una seconda punta quanto come un attaccante capace di sprigionare giocate di fantasia. Io capisco che non ci possa essere Del Piero, data la stagione, dati gli anni, capisco anche, io ho scritto che non l'avrei convocato, che non ci sia Totti, non tanto perché si è chiamato fuori dalla nazionale, l'ultima partita risale alla finale di Berlino 9 luglio 2006, anche Lippi se vogliamo appunto si è chiamato fuori e poi è rientrato, ma proprio perché il suo rendimento sul piano fisico non è stato all'altezza delle esigenze, secondo me. Però è chiaro che uno fra Cassano e Miccoli l'avrei chiamato, io ho scelto Miccoli anche se poi neanche a farla apposta, appena scelto si è fatto male. Però ecco, ci manca un po' di fantasia, che era sempre stata la nostra caratteristica. Nello stesso tempo, Gigi, sono rimasto favorevolmente impressionato da una mossa di Lippi, che nonostante le traversie personali e familiari che ha attraversato, nonostante appunto il terreno che per questo ha perso, ci sia Giuseppe Rossi. Sì. Infatti questa è stata un guizzo finale. Rimane complessivamente la sensazione, insomma, che speriamo che poi il tempo cancelli, no? Perché poi bisogna giocare e il campo sempre, ma in particolare in un mondiale il campo poi dà sempre molto risposte spesso diverse, no? Rispetto alle attese della vigilia. Dicevo, rimane però questa sensazione da un lato di una nazionale di combattenti reduci e dall'altra, mancando questa fantasia, mi verrebbe da dire quasi da impiegati del catasto, no? Cioè ti pare? Sì, sì. Diciamo che sulla carta è una nazionale sbagliata, che potrà diventare giusta sul campo. Non si vede all'orizzonte neppure uno scandalo delle dimensioni di quello del 2006, tale da compattare il gruppo, sì, fino al midollo, anche se c'è qualche rigurgito, sì, interessante. Per cui sì, Gigi, siamo tutti d'accordo, è una nazionale sulla carta di ragazzi per bene, senza nessun giocatore estroso. Io facevo il riferimento all'ultimo CT che ha vinto il mondiale, cioè Enzo Berzotte, dopo l'82, nell'86 lui ha 10 reduci e l'unico, sì, giocatore di fantasia era Bruno Conti, sì, capito? Spostato all'esterno perché poi c'erano Di Gennaro, Tardelli, Ancelotti e poi le punti, Vialli, Altobelli, Calderisi, Paolo Rossi e Serena. E anche lì, insomma, un contributo ai reduci, sì, a altre nazionali che si affacciavano, e l'uscita agli ottavi di finale non fu una capita che il CT che ha vinto debba pagare o voglia pagare un contributo a chi l'ha fatto vincere. Un caso a sé Balotelli, che personalmente fino alla sceneggiata di Inter Barcellona avrei chiamato, poi ti confesso che forse sbagliando mi sono un po' raffreddato. Sì, sì, difatti è comprensibile, anche se un così, scorrendo questo elenco, un Balotelli che potesse sparigliare le carte. Ah beh, chiaro, lui era il cambio ideale. Ecco, certo, esattamente, certo. Esattamente. Senti, stiamo forse un po' sottovalutando tutti quanti un giocatore che si chiama Di Natale, nel senso, lo stiamo sottovalutando un po' per l'età, un po' perché ha giocato in periferia e noi sappiamo che o sei metropolitano o l'attenzione automaticamente è ridotta, e un po' perché è un déjà vu anche lui, nel senso che in nazionale c'è da parecchio tempo, però ha giocato un'annata strepitosa. Sì, beh, infatti è il capocannoniere indiscutibile, magari in nazionale non è riuscito sempre a rendere come a livello domestico, ma siamo di fronte al capocannoniere che secondo me, se viene scelto il capocannoniere del campionato, non è nulla osta, hai capito, giù il cappello, poi magari... Che poi ha anche il gusto, no? E il talento per la giocata, certo, sopraffina. Certo. Noi lo vedi, per me almeno Di Natale è una seconda punta con talento, più che un talento fa la seconda punta. Capito. Noi forse, io per primo ci cibiamo di luoghi comuni. È chiaro che noi poi, fra parentesi, siamo un paese che risolve sempre per sottrazione, Rivera meno Mazzolo, viceversa, mentre altri come la Francia, Chires più Platini per somma. È un po' la nostra caratteristica, ma poi alla Galliani noi si espone l'Albo d'Oro e tranne il Brasile esitiamo tutti. Ecco. Effettivamente. Torniamo in compagnia di Roberto Beccantini. Un breve sguardo anche all'estero, Roberto, e mi pare che non siano tempi questi effettivamente da fantasia al potere. Ronaldinho a casa, Pato, Benzema in Francia, tutti esclusi da questo primo elenco. Diciamo che questo fatto conferma la sindrome Lippi, se vogliamo, quindi sì. Lippi potrebbe farla ola. Certo che uno pensa Felipe Melo, questo Felipe Melo in nazionale, e Ronaldinho, questo Ronaldinho fuori. Magari Gigi c'è anche una sopravvalutazione del campionato, che del nostro campionato, che all'estero non viene più recepita, hai capito? Io penso anche questo, insomma, le triplette al Siena vanno tarate, vanno molto tarate. Non a caso, paradosso contrario se vuoi, l'Inter, che è l'unica squadra campione, penso, che non offra giocatori alla nazionale, però è anche l'unica che ha coperto con la finale di Madrid in Champions la mediocrità diffusa della nostra Serie A, certo, che non è più è quella di una volta. Assolutamente. E il segnale di controtendenza direi che è la Spagna, perché Del Bosque, da davvero ex grande giocatore, tutti quelli che, al di là poi delle condizioni fisiche tutte da verificare, ma tutti quelli che poteva con i piedi buoni li ha presi tutti, Anche perché, sai, la Francia, c'era Aragonés, Del Bosque l'ha presa in mano dopo, però la Spagna, scusa, sì, viene dal trionfo del 2008 dell'Europeo, capito? Quindi, sai, è andato via sull'onda, non ha dovuto ripartire come in altri casi. Però è un segnale forte, la Spagna diciamo che sa vincere solo così. Il mondiale rappresenta per lei il grande incubo, mai salita sul podio. Ricordo ai nostri ascoltatori, la Spagna non è mai salita su un podio mondiale. Verissimo. Per cui vedremo se questa scommessa, la scommessa dell'eccesso di talento, porterà a quelli che sono i frutti che tutti noi amanti del calcio ci auguriamo. Cioè, perché sai, dove vince il talento tutti applaudono. Non c'è dubbio. Esteticamente è sempre stato e sarà sempre così. Roberto, proviamo a rifarci la bocca con questo centenario. Allora, la settimana scorsa, io dopo lunghi tormenti e dopo aver messo giù non so più quante formazioni, quanti selezionati, eccetera, tutti noi, no, giochiamo a fare i CT, siamo una sessantina di milioni, ho provato a mettermi nei panni dei CT del secolo e ho tirato fuori, ripeto, dopo tormenti interminabili, ho tirato fuori Zoff, Burnic, Maldini, Tardelli come centrocampista ovunque, insomma, diciamo pure come mediano di un tempo, Cannavaro, Scirea come coppia centrale e poi Bruno Conti, Giovanni Ferrari, Piola, Meazza a far staffetta con Rivera per ricordare questo delirio, no, che ha segnato comunque la storia del calcio italiano, e Gigi Riva a sinistra. I quattro che più mi è spiaciuto escludere comunque inserire come riserve sono stati Claudio Gentile per Burnic, Cabrini per Maldini, Valentino Mazzola in qualunque ruolo d'attacco ma soprattutto quello di Giovanni Ferrari, cioè di centrocampista, e Paolino Rossi con Piola. Volevo sentire una tua opinione e volevo sentire altri nomi, altre casistiche, ma, la tua. No, ma i nomi sono quelli, poi ci sarebbe anche Rivera. Rivera con Meazza, Rivera giocato. Quando si fanno gli 11 è un'operazione chirurgica veramente in cui si affonda il bisturi ben oltre la pancia del sentimento della competenza, si spera, almeno nel mio caso. Certo, anche me, Gentile al posto di Burnic, sì, anche magari è molto suggestiva la coppia Cannavaro-Scirea, in effetti, che è il buono a quella nazionale dell'82 formidabile, cioè l'unica vera lacuna prima di Collovati era lo stopper, comunque, no? Poi Collovati fu bravissimo in quel periodo abbastanza breve, però Cannavaro mi sembra che per personalità, per un pallone d'oro vinto grazie a un mondiale pazzesco, mi sembrava che ci stesse. Certo. Ma siamo lì. Comunque, sai, sono belli questi. È bello sempre ricordare il passato, qualunque esso sia, per poter prendere ispirazioni per il futuro. 100 anni della nostra nazionale sono una cifra tonda che assolutamente meritava questa ricorrenza e questo sforzo di memoria in un paese che in palestra a sgranchire i muscoli della memoria va sempre poco, secondo me. Che bella conclusione questa. Grazie Roberto. Grazie a te Gigi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Beh, i muscoli hanno provato a sgranchirli anche alcuni ascoltatori. Gibril D'Alegnano scrive: forse è l'Italia più scarsa dal 66, che ne pensate? Penso che non sono affatto d'accordo. Quell'anno l'Italia era ricchissima di talenti, il problema è che erano troppi semmai e fu molto mal gestita dalla guida tecnica. Io Micco ce l'avrei messo, scrive Daniele da Sassuolo. Candreva sarà la liberazione, scrive un altro. Faremo fatica a passare il primo turno, lo rimbecca Marco. Ma che male ha fatto Perrotta per non essere convocato, si domanda Beppe. Io prima di dare spazio agli ascoltatori già collegati segnalerei intanto che Un secolo di storia di Nazionale è anche il titolo di una mostra che il presidente federale Abete inaugurerà sabato, quindi in occasione esattamente del centenario, sabato alla Palazzina Piani dell'Arena di Milano. 100 anni di storia azzurra, sarà visitabile gratuitamente fino al lunedì successivo, prima di partire per un tour che la porterà nei prossimi mesi in tutte le regioni italiane. In mostra ci saranno maglie, palloni, scarpe che hanno accompagnato i 100 anni dell'Italia calcistica. Un appuntamento storico per l'Italia, segnala l'ANSA, che si appresta a giocare il mondiale del suo centenario da campione in carica. Dennis ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno dottor Grassini, anzitutto grazie per la possibilità che mi dà. Io le volevo chiedere questo: un tempo fa io ricordo che chi giocava in nazionale generalmente veniva convocato per i suoi meriti sportivi durante l'anno calcistico, quindi diciamo, se uno si comportava bene durante il campionato aveva buone possibilità di venire convocato in nazionale. Quest'anno mi sembra che questa cosa sia andata un po', diciamo, persa, perché comunque ci sono giocatori che secondo me si sono comportati molto bene e che non hanno trovato molto spazio, a differenza di Grosso o di altri che ne hanno avuto. E questa è una prima cosa che le volevo chiedere. La seconda è questa, era una mia considerazione. Noi abbiamo un settore giovanile molto importante, perché oggi abbiamo circa 170 ragazzi che giocano con noi e da quest'anno alcuni nostri allenatori hanno preso, diciamo, si sono presi in impegno di accordarsi con i genitori dei ragazzi in modo tale che le loro attività scolastiche vadano di pari passo con quello che è lo sport. Io penso che questo sia un modo nuovo per fare calcio e forse è da qui che dovremmo partire. Io sono molto felice di questo. E un'ultima considerazione veloce, noi, però Sì, velocissima. Noi questo lo voglio fare alle società di calcio: siccome noi ogni anno abbiamo 2-3 ragazzi che vengono mandati ai provini delle squadre di calcio, poi a fine stagione tutti gli anni ci capita di avere questi ragazzi che ci chiedono: ma che fine hanno fatto, perché non ci chiamano? Io le volevo chiedere se secondo lei è una cosa giusta o se non è meglio che le società mandino i giovani, i visionatori e i giocatori direttamente nelle società a vederli invece che fargli fare i provini. Grazie, dottor Granzini. Grazie a lei, Dennis. Era un intervento un po' complicato. Se dovessi rispondere a tutte le domande, finiremmo il programma. Quindi prendiamole per delle considerazioni, che tra l'altro erano anche in gran parte sensate. Da Milano, Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un tifoso interista. Beh, oltre a essere tra virgolette scandalizzato per l'Argentina che non ha chiamato Zanetti e Cambiasso e Milito in forze, dato che in Italia si fanno delle convocazioni per merito, come avete detto prima, Marco Materazzi, non ha giocato sempre, però le poche partite che ha fatto quest'anno mi sembra che l'ha giocato abbastanza bene. Cioè, più meritoso di lui per essere convocato non vedo che ci sia. Lei ha premesso prima che è interista, vero lei, Giorgio? Sì, sì, sì. No, perché mi mancava questo riferimento. Veda lei, io credo che in questa nazionale, e così rispondo in parte almeno anche all'ascoltatore di prima, ci sia indubbiamente del reducismo. L'ho già detto conversando prima con Beccantini, ce n'è forse anche troppo con Materazzi. Io penso che sarebbe un tantinello esagerato questo reducismo, perché almeno per quelli della Juve c'è l'alibi del blocco, no? Nel senso che giocano insieme, poi come giochino l'hanno visto quest'anno i tifosi della Juventus per primi e si sono fatti un'idea abbastanza compiuta, però è una prassi abbastanza costante. Lei, a differenza di quello che diceva l'ascoltatore di Rimini, che dice che devono giocare i migliori del campionato, non è affatto vero, devono giocare quelli che danno più garanzie di durata nel tempo commissario tecnico, che poi ovviamente può benissimo prendere le sue cantonate, come c'è il sospetto che stia prendendo Lippi in questo momento. Il campionato suggerisce delle alternative, da qui qualche nome nuovo che in effetti c'è in questa rosa come in tutte le rose. Non convocare Cambiasso e Zanetti secondo me è un errore grave, e auguro a Maradona di non pagarlo in maniera altrettanto cara. Roberto da Fermo, buongiorno. Buongiorno, piacere dottor Granzini. Piacere mio. Se la memoria non mi inganna, nel 1982 Berzot non convocò Bruzzo, che all'epoca era capocannoniere. Esatto. Quindi i criteri sono più o meno, assomigliano un pochino a questi adattati adesso. E un'altra cosa, velocemente, convocazioni di giocatori che giocano in campionati stranieri, tipo Barzagli. Sì. Non so se è stato convocato. No. Però sembrava un giocatore abbastanza forte. Ecco. Ma sembrava, comunque, insomma, anche lui ha giocato una stagione veramente difficile, è diventato un rincalzo del Wolfsburg, a differenza dello scorso anno in cui era stata una colonna. Quindi io ho dato una scorsa a quell'elenco di 23 di cui parlavo prima, compilato da Beccantini, vi ha parlato prima, vi ha ricordato di Miccoli, che poi però si è infortunato, sarebbe stato un problema. C'era un nome che sarebbe piaciuto anche a me, che è quello di Balzaretti. Secondo me, se c'è un nome che poteva essere coltivato per un ruolo in cui sinceramente chi c'è sembra assai vicino alla bollitura e poi invece ci smentirà tutti, e cioè Grosso / Zambrotta, a me sembrava che Balzaretti avesse fatto una signora stagione, e mi sembra anche che almeno un paio di difensori della Sampdoria, così in generale, scegliete voi, per la stagione che hanno fatto e per la compattezza che ha dimostrato giocando un calcio anche aggressivo la Sampdoria, insomma, meritassero un'attenzione in più. Hai talento? Hai fantasia? Hai personalità? Allora resta a casa. La lista dei 30 calciatori, tra cui il CT Lippi sceglierà i 23 che voleranno con lui in Sudafrica, è una nazionale che assomiglia alla nazione. Comincia così stamani il buongiorno di Massimo Gremellini sulla copertina della Stampa, comincia così e continua in maniera altrettanto, secondo me, condivisibile, oltre che ovviamente spiritosa, alla sua maniera. Ne parleremo domani direttamente con l'interessato, con Massimo Gremellini, nello stand di Radio 24 al Salone del Libro di Torino, spazio Radio 24, padiglione 2, stand H170 e J169, a fianco della Sala Blu. Quindi appuntamento per tutti gli ascoltatori che avranno piacere di partecipare di persona domani al Salone del Libro di Torino e collegamento. Anzi, e Radio 24 schierata in massa per tutti i 5 giorni della durata del salone con un gran numero di programmi in diretta trasmessi direttamente da questo Salone del Libro, compreso, ripeto, A Tempo di Sport di domani con Massimo Gramellini e un'altra edizione di A Tempo di Sport, quella del prossimo lunedì. Fabrizio ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno a lei, ci siamo già sentiti per parlare di Shevchenko tempo fa. E niente, io sono molto preoccupato. Sì. Perché le dico, io sono milanista da 4 generazioni, però avendo visto tutte le partite del Milan sono sconcertato dalla chiamata di Zambrotta, perché atleticamente non ce la farà. E poi non capisco perché, e questo è un grosso punto di domanda che non mi fa dormire, perché non siano in nazionale Liverani e Perrotta, che le assicuro, Perrotta ha fatto delle grandissime partite e è una persona che corre in mezzo al campo. Poi d'accordissimo su Miccoli e poi Candreva, penso sia una cosa sconcertante, non so se è un certo tipo di pacchetto come è stato per Unterlar con Cacao o se era un'offerta 3+1 della Juventus, 4+1, insomma. La ringrazio e l'ascolto per radio, buona giornata. Grazie a lei Fabrizio, beh in effetti insomma, non è giusto mancare di rispetto. Non è giusto mancare di rispetto a nessuno, tantomeno al commissario tecnico, ma è chiaro che insomma, tutto si presta un tantino, non dico al sospetto, ma perlomeno all'ironia, ecco, mettiamola così, perché in effetti insomma, farsi sorprendere più di un anno fa con l'occhio con l'amministratore delegato allora e oggi presidente della Juventus, impostare vedere che il pupillo Ferrara la va a allenare, vedere che arrivano i cavalli di ritorno, veder varato un blocco difensivo bianconero che poi nei voti si dovrà trasferire in azzurro e vedere che questo blocco fallisce a questa maniera ma in ogni caso rimane in azzurro. Beh, insomma, è indubbio che insomma, qualche cattivo pensiero non può non ispirarlo, è oggettivo questo. Cristian da Genova, buongiorno. Tanto buongiorno. Io volevo chiedere invece una cosa più sul campionato. In questi giorni si parla tanto di Del Neri alla Juve. Volevo sapere se secondo lei come vedrebbe l'anno prossimo eventualmente un Malesani alla Sampdoria e se secondo lei c'è qualche possibilità che venga alla Sampdoria. Secondo me serve un tecnico comunque con una buona esperienza anche a livello europeo, visto che a parte Ancelotti è l'unico che negli ultimi anni ha vinto una coppa. Io non glielo auguro, Cristian, proprio così è a spanne, visto che lei evidentemente è tifoso della Sampdoria. Però è indubbiamente una possibilità. Visto che siamo alla Sampdoria, mi sembra giusto leggere questo, una parte di un comunicato che è apparso lunedì scorso, cioè 2 giorni fa, sul sito ufficiale della Sampdoria ed è riferito alla partita del giorno precedente a Palermo. Ripeto, non lettura integrale perché sarebbe troppo lunga, ma la parte essenziale, una splendida lezione, una partita in grado di indirizzare i destini di 2 squadre, si riferisce ovviamente a Palermo-Sampdoria, 2 società e 2 tifoserie entrambe alla ricerca di un sogno. A Palermo ieri i tifosi della Samp hanno potuto godere della grande prestazione dei nostri ragazzi in un ambiente davvero indescrivibile quanto a passione, amore per il calcio e straordinaria correttezza. Una partita da prendere a modello nella quale Palermo e i palermitani tutti hanno vinto comunque. I siti in genere sono una forma moderna per comunicare spesso e volentieri livori, rancori, messe a punto, precisazioni. Sono, non dico ricettacoli di messaggi negativi perché non vorrei esagerare, ma insomma spesso i siti delle società calcistiche finiscono per essere oppure per rispondere magari in maniera imbarazzata anziché prendere posizioni pubblicamente. Questo mi sembra una lezione di sportività da parte della società Sampdoria. Massimo ha chiamato l'Alessandria, buongiorno. Buongiorno Massimo. Massimo sta ronzando il motore, ma lo cercheremo più tardi. Da Napoli invece c'è Gianni in linea, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Complimenti alla Sampdoria per il comunicato e soprattutto ai palermitani per la bella figura fatta. Certo. Una riflessione facevo, che cosa dovrà fare di più il fratello povero di Fabio per essere convocato in nazionale, forse probabilmente dovrebbe arrivare Mazzarri a nazionale per poterlo convocare. Volevo una riflessione da parte sua. Non condivido, credo che insomma, se devo dire chi mi ha impressionato di più quest'anno difensivamente parlando sono i centrali del Bari, per esempio, uno dei quali purtroppo è rotto, i centrali della Sampdoria, Cannavaro credo che facendo leva sull'orgoglio avrà in nazionale ben alto rendimento. Non credo che manchi il Cannavaro Junior a questa nazionale. Secondo me manca altro. Io continuo a pensare che manchi il talento e, se vogliamo, anche la follia di Balotelli, cioè di uno capace di cambiare una partita in un amen. Questo mi sembra che manchi seriamente. Poi è chiaro che qualcosa manca sempre. Per esempio, Maurizio Scarpa mi scrive una mail velocissima, dice: Baresi, niente? E ovviamente si riferisce alla nazionale di tutti i tempi. No, grazie, Maurizio, niente. Niente, nel senso che Baresi è una splendida, se facciamo una nazionale di 100 anni, per me è un'alternativa, ma se, dato che ho cercato di assemblare su varie epoche, in quell'epoca c'era Scirea, che per me anche non solo da un punto di vista tecnico, ma anche per comportamenti in campo, secondo me viene prima Scirea e verrà sempre prima Scirea. E ovviamente sono opinioni queste. Sentiamo qualche opinione, per esempio quella di Abete sulle scelte di Lippi. Totti e Del Piero sono due grandi giocatori, ma ci sono tanti altri giocatori che hanno fatto parte della rosa del 2006, che per motivi vari, alcuni per motivi proprio anagrafici in termini naturalmente di impegni agonistici, non sono nella rosa. Punta sul gruppo, è una filosofia che Lippi ha sempre portato avanti, ma non c'è il giocatore che fa la differenza in assoluto, e quindi questa è una ragione in più per puntare sul gruppo. So anche, ovviamente in maniera ancora abbastanza criptata, ma sempre meno mano a mano che i giorni passano, sul prossimo commissario tecnico. No, non c'è nessun tipo di decisione, una priorità qualora fosse necessario di avere prima delle interlocuzioni con le società, la scelta di un tecnico italiano. Mi piace Prandelli come allenatore, ma questo l'ho sempre detto, perché è un allenatore di qualità sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista di persona. Gianni da Modena domanda: come mai Baggio non è nella sua formazione ideale? Perché da numero 10, secondo me, il numero 10 per eccellenza, io credo, della storia del calcio italiano di questo secolo, i numeri 10 sono due, sono uno dell'anteguerra che si chiama Peppino Meazza e uno del dopoguerra che si chiama Gianni Rivera. Poi, a parer mio, c'è Baggio, siamo sempre nell'opinabile. Meno opinabile è quello che scrive invece Alex da Varese, lo condivido in pieno. Ma Gattuso bollito, si domanda, è tanto meglio di Ambrosini? Assolutamente no, rispondo io, ma assolutamente no. Se c'è una scelta che non ha senso proprio a parer mio, è Ambrosini a casa e Gattuso in nazionale. Perché il senso invece alla fine ce l'ha? Ma perché Gattuso fa parte di questo gruppo da un sacco di tempo, quindi è inserito a tutti i livelli e non è alla vigilia di un mondiale che un commissario tecnico può mandarli a casa tutti, non dico tutti a 23, ma insomma può mandarli a casa tanti di quelli che non sono più all'altezza, perché spera nel loro recupero di orgoglio e di tante cose, di sollecitazioni da un certo punto di vista, e dall'altro comunque un barlume di gioco collettivo, insomma di abitudini, di meccanismi, deve pur preoccuparsi di salvarlo, e questo è sempre un problema che noi commissari tecnici da casa facciamo un po' fatica a tenere presente, colpevolmente, perché insomma dopo che ne parliamo da tanti anni, questo parametro un pochino più presente tutti, me per primo, lo dovremmo tenere. Alcuni ascoltatori mi invitano a rileggere con più attenzione la mail così sintetica di prima, ma Baresi niente, inviata da Maurizio Scarpa, e qualcuno per l'appunto suggerisce di Baresi niente per Lippi, vista l'età media della difesa nazionale. In effetti così potrebbe già essere diverso. Il ripasso della storia, oggi 12 maggio, insomma, è un giorno che in una certa area del nord-est credo non sia difficile, insomma, immaginare quale può essere, ma sentiamo. Sembra ieri. 12 maggio 1985. Lo scudetto arriva per la prima volta a Verona, grazie all'Hellas di Osvaldo Bagnoli. Ai gialloblu basta un punto guadagnato in casa dell'Atalanta per laurearsi campioni d'Italia con un turno d'anticipo. Un trionfo sorprendente ma non casuale, che nasce dal sapiente lavoro di Bagnoli e del direttore sportivo Emiliano Mascetti, capaci di costruire senza grosse cifre una squadra di ottimi interpreti, come il centravanti Calderisi, il regista Di Gennaro, l'ala Fanna e il libero Tricella. Decisiva si rivela anche la scelta dei due stranieri, l'attaccante danese Preben Larsen Elkier e Hans-Peter Briegel, difensore tedesco col vizio del gol. Non era difficile indovinare il quarto di secolo, 12 maggio 1985, il quarto di secolo dello scudetto del Verona. Roberto da Alessandria, buongiorno. Pronto? Dica Roberto. Sono da Bologna, però fa lo stesso. Volevo fare una considerazione. Io degli attaccanti che ha chiamato Marcello Lippi in nazionale non riesco a capirne uno, Quagliarella. Per me Quagliarella quest'anno è stato veramente molto deludente. Vedere Miccoli a casa dà veramente molto fastidio, e in più a centrocampo anche Montolivo è stato veramente molto scarso, e prendere Montolivo e lasciare a casa un giocatore come D'Agostino o verificare adesso D'Agostino, non esageriamo, D'Agostino non ha giocato mai, però a livello tecnico però lei va bene, ho capito, però non è che per uno può valere il fatto che ha giocato poco, per l'altro invece deve valere il contrario. Miccoli si è pure fatto male, l'ultima domenica, ora per fortuna pare che la risonanza abbia denotato una gravità inferiore al previsto per questo problema al ginocchio, però i tempi di recupero non sono stati ancora ben definiti, quindi ho paura che Miccoli si sarebbe comunque dovuto chiamare fuori da solo. Certamente almeno nei 30 meritava di finire, su questo non c'è dubbio. Poi sa, Quagliarella non Quagliarella, purtroppo non stiamo parlando di elementi decisivi, tantomeno in attacco. E d'altra parte proviamo a ricordare anche quello che accade nel 2006, che non ci fu un attaccante che giocò un mondiale degno di questo nome, lontanamente degno di questo nome, ma alla fine arrivò il titolo grazie ai gol dei difensori, oppure grazie al golletto che ciascuno di loro segnò, giusto Toni 2 in una partita, ma perché erano le badanti dell'Ucraina, insomma. Marco ha chiamato la Monza, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, io ho già sentito che quello che ha detto su Firea e su Baggio, quindi probabilmente la mia formazione non le piacerà molto, però dipende forse anche dal modulo con cui si decide di far giocare questa ipotetica nazionale, no? Allora, volevo sapere magari cosa ne pensava di questa. Parto dal presupposto che sia una nazionale dove, prendendo i giocatori che in quel momento, in quel periodo, stavano giocando, secondo me, al top della loro forma, e sarebbero Zoff, Maldini, Baresi, Collovati, Torricelli, Conti, Tardelli, Donadoni, Rivera, e davanti Baggio e Riva. Grazie, ascolto per l'altro. A parte che mi sembrano 12, ma comunque su questo possiamo ricontarli. Ce n'è uno su cui l'intero studio è sobbalzato, perché, con tutto il rispetto, ha capito per chi, ma insomma stiamo parlando della nazionale di un secolo, allora o lei è parente e allora tutto è giustificato, e se no sinceramente Torricelli in quella compagnia è un po' imbarazzante, ecco, mettiamola così. Sembra quei dove l'errore, no? Vabbè. Alessandro ha chiamato invece la Parma, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Le chiedevo, innanzitutto sono d'accordo con lei che manca fantasia, però uscivo dal discorso nazionale, le chiedevo una cosa: ma quest'anno in Serie A la frase blasfema o la bestemmia solamente di Carlo e Lanza Fame l'hanno data? L'ascolto per radio. No, Alessandro, hanno punito anche altri, hanno punito allenatori, io un altro paio di giocatori almeno me li ricordo. C'era un provvedimento demagogico da prendere, no? Ad un certo punto, perché bisogna pure, non essendo capaci o non avendo voglia, no? Di risolvere il problema della violenza negli stadi e degli ultra, e di guardare davvero in faccia che cosa flagella il calcio italiano, che cosa potevano fare dirigenti non all'altezza? Potevano dare una botta di demagogia, l'hanno data, l'hanno data sulla bestemmia, poi adesso vedrà che l'anno prossimo se ne studieranno un altro paio. L'importante è sempre la vecchia antica ricetta italiana, che è quella: dai alle pagliuzze e lasciamo perdere le travi, perché le travi, ragazzi, bisognerebbe essere capaci di affrontarle. Alberto ha chiamato da Cuneo, buongiorno. Ciao Gigi, mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo personalmente. Io non sono sorpreso dalle convocazioni di Lippi, d'altro canto, essendoci lui, le convocazioni quelle sarebbero state. Secondo me la mancanza di fantasia è nella dirigenza della Federcalcio, che mette un allenatore, secondo me, cotto come Lippi, allenare la nazionale, quindi non ci possiamo aspettare grosse fantasie da lui. Ti ascolto per radio. Sì, è stato un richiamo abbastanza inusitato quello di Lippi alla guida della nazionale, ma secondo me è proprio per una questione di principio, perché qualunque fossero le ragioni, le sappiamo, anche Nobili, che avevano suggerito a Lippi di andarsene, beh, insomma, ho sempre detto che la nazionale non è un piede a terra in cui uno va e viene come gli pare, no? Magari senza farsi troppo notare, è un'altra cosa. E quindi secondo me in quella circostanza sbagliarono sia Lippi a rirendersi disponibile che soprattutto Abete a ridargli le chiavi. E questo da un punto di vista, come dire, formale. Da un punto di vista sostanziale, tanto vale aspettare un altro mesetto e mezzo e capiremo meglio. Appuntamento a tutti dunque domani dal Salone del Libro di Torino, in diretta alle 14 col vice direttore della stampa Massimo Gramellini. Per il momento grazie a Carmelo Lauricella, a Rudi, a Flavio Suardi, a Franco Piantanida. Buon pomeriggio a tutti.